preso, devono levare misure, l'operaio deve pulirlo e farlo, se è aperto va bene, ma io nei potenti chiusi non c'entra nessuno, chiamo l'autospurgo, lo faccio pulire con l'autospurgo, me lo fa tenuto da me, ma stai scherzando, dove ci rimane? Quindi sono lattioni dove uno non deve respirare in modo più assoluto. Ma mi piace, vedi, metti la mascherina la metti a tua sorella, io non metto niente a nessuno, con me si lavora in sicurezza, perché non voglio nel modo più assoluto né che mi faccia male io né che si faccia male gli altri, perché ci abbiamo impianti che fanno schifo, capito? Dove le ringhiere sono tutti rugginosi, non hanno mai fatto manutenzioni, non le vogliono fare, stanno aspettando che qualcuno si faccia male veramente. E quindi in determinate circostanze io proibisco nel modo più assoluto, anche perché da poco abbiamo eletto il responsabile della sicurezza, che è un mio carissimo amico, e quindi ci siamo messi d'accordo tutti i conduttori di squadra, dove nel modo più assoluto qualsiasi problema ci sia di avvisare a lui, perché non si può lavorare così, che sono buffoni, ci sono impianti che sono alti 6-7 metri, cazzo, ingaggi dalle ringhiere e dice ai 10, no, io no, queste cose non vanno bene, ci sono i metri autorizzati, si mangiano, io avviso, guarda che quel passetto vuole pulito perché è pieno di sabbia, è pieno di liquami, manda l'autospurgo e te lo vai a mettere, e con i secchi ci scendi tu a pulirlo, io non scendo proprio da nessuna parte, non faccio scendere nessuno. E io l'aspiravo con la pompa, poi c'era una specie di porto dentro il coso dell'ascensore dove c'entrava la pompa, si da quando ce la faceva aspirava. E poi te lo devi svoltare quei secchi, scendere giù e svoltarlo quei secchi lo stesso. Io li riempivo, mio collega li tirava su e ci li buttava fuori. Sì, guardi, come facciamo noi? Con le pompe flight, la manichetta manuale, le fai, tieni il galleggiante girato, in modo che non si blocchi, e mandi, noi mandiamo intestato l'impianto praticamente, no? Sull'ingresso, in modo che poi vada a lavorarsi il reflo stesso, capito? Perché non abbiamo altri metodi da poter buttare fuori, capito? Non è che puliamo la bomba, scarichiamo il fiume, no? Mamma così. Lo buttiamo in testa l'impianto, se lo porta dentro l'impianto e lo lavora, pazienza. Quindi pulisci da una parte, sporchi dall'altra, però siccome gli impianti hanno un processo abbastanza grosso, quel poco che stai mandando in più non se ne accorge neanche, quindi lo lavora automaticamente. E bisogna stare attenti, cazzo sul lavoro non ve lo dava. Come ti gioco una ghita, io qui sono una settimana che domani, se non mi mettono le gomme nel fiorino, io macchina non la metto, non me la fotti nulla, capito? È una settimana che sto dicendo che mi serve il buono per cambiare le gomme, noi ci troviamo qua da Nando, no? Nando qui sulla stessa Ressi, e ancora non è arrivato il fax da Caglia. Se domani non arriva il fax da Caglia, io fermo la macchina, non c'ho più gomme davanti, capito? Una macchina nuova, mi c'ha 40.000 km già, una macchina neanche di un anno, c'ha già 40.000 km, che per quello so c'è un male gomme, cosa vuoi, ti cambia io? Beh, specialmente le ruote davanti sono molto importanti, dietro tanto quanto ce la fai arrancare col volante, ma se ti si buca quella di davanti, si scoppia quella di davanti, non vi la fai più a dritta la macchina. Poi se buchi rimani a piedi, perché queste macchine, non so se lo so, ma i fiorini nuovi, questi che abbiamo noi, non c'hanno ruota di scorta, c'hanno il kit, capito? C'hanno il kit. Cazzo per la guarda c'ha un kit, tocchite, apri, poni, vai, ma giratemi le balle. Eppure non mi vogliono cambiare perché io non me le ho mangiate, quindi con la macchina fa dai 200 ai 250 km al giorno, tutto curve, tutte strade in campagna e balle varie, anzi, è già troppo che non ha un graffio e che la sto operando come che sia la mia, perché è sempre pulita e ordinata, però se le gomme sono consumate io, ma come mai, ma perché, ma che strada fa lei, ma la convergenza l'ha fatta, ma dov'è? Cazzo, già con 30 anni guidando, no, non ho già giambati, me l'ho già mangiate le gomme, no? Si sono consumate, cosa vuoi da me? Eh, girare. No, una volta le fate girare a settembre. Le fate girare a settembre, ma oramai non ce n'è più, sono proprio da cambiare da avanti, capito? Dietro sono ancora originali. E vanno bene anche perché io non carico niente, non c'ho niente in macchina, capito? No, non porto niente. Ho messo il cartone dietro al cofano, sempre tutto pulito, ordinato, c'ho la cassetta dei ferri, ma ferri così, insomma, che possono servire per qualche interventino veloce, e poi c'ho la cassetta del praticamente laboratorio di analisi mobile, no? Capito? E basta. Poi il giubbottino, i stivali se mi servono, roba così, ma non voglio nulla. E i cinevelli, i civilini, che toccano a terra, tu carichi di bombe, di gardeni, di attrezzature, balle varie, ma quelli sono conduttori manutentori, quindi io quando mi serve qualcosa chiamo, vengono, lo fanno, non è che... Se fosse stata carica sicuramente avrebbe durato di più la volta di davanti, ma siccome è trazione anteriore, essendo scarica consuma più davanti che dietro. Ah, il motore poi che prese davanti? Sì, è presa buco questa macchina. Ah, è però una bella macchina, ho visto stamattina nella neve, anche senza gomme davanti, sta guardando benissimo. Poi c'è un sistema di frenata ABS, c'è il sistema di coso antipattinaggio, buono gioco, si fa che si accende, c'è una spia per la neve, insomma, una bella macchinetta. Qui c'è un proprio fiorino tipo nuovo? Sì, nuovo fiorino, è un 1300 multijet, viaggia che è una canonata, cammina, beh, non consumano. E sono anche sicuri, c'hanno barra stabilizzatrice dietro, anche in curva ho visto che belle macchine ha fatto, sì, belle macchine lavoro. Noi abbiamo preso 120, la mia è la numero 52, mi pare la 53, no la 52, la 53 quella di Gianni, la numero 52, 120 rossi e 40 bianchi, però 40 bianchi non sono fiorino, sono gran punto. E a proposito dell'otta di scorta, mi è arrivata dalla Fiat una lettera alla ditta là, e poi il mio collega mi ha detto guarda che c'è posta per te già. Ho aperto e c'era scritto praticamente a riportare al più presto il furgone alla Fiat perché hanno riscontrato un problema, cioè l'argano fatto male che tiene la rotta di scorta. Si sgancia e rischi di perdere la ruota e di fare anche un po' di danno. A qualcuno è già successo, quindi c'era scritto di portare la porta perché sono andato a consegnare il panettone con la roba lì e gliel'ho fatta vedere già che c'ero, via l'automax. E mi ha detto guarda, devo ordinare l'argano nuovo perché c'è questo difetto qua e... Perché non è che mi si sgancia questa cosa, se no la faccio chiudere la ruota. No, non si sgancia. Sganciare non si sgancia, ma diciamo a qualcuno è successo, però adesso come gliel'ho comprata si muove appena la sua, ma non è più di tanto, però gliela cambiamo lo stesso. Se ti ero mandato la lettera, me l'avevo mandata quando avevo l'Audi, che c'era un sensore, non so di cosa, a me ogni tanto mi si accendeva questa spia, non ricordo che sensore era. E niente, ma tu non sa cos'è, boh, anche spia, ce l'avevo da poco la macchina, quindi non è che mi ero messo lì a leggere a fare. Invece poi mi aveva mandato dalla Germancar una lettera che a me dove diceva che c'era questo sensore dello sterzo, non so che cosa, e quindi poteva creare problemi all'idroguida. Sono andato e me l'hanno cambiato, adesso ci mi hanno sono dentro una guida, ma mi hanno dato la macchina sostitutiva. Andrea Pio mi ha dato anche un sostitutivo, però me l'hanno cambiato perché quando loro riscontrano queste cose bisogna portargli, se no è un casino, capito? È un casino. E vabbè, e poi voi che furgone ci avete del nuovo? No, Ducato Turbo dice. Ducato con la Max. Quello alto, quello che ha la centina 8 alto. No. E quell'incolo e quello di ultima generazione è lo stesso. K, sì, sì. Io ce l'avevo 2 anni, nuovo. Ma l'educato va bene lo stesso. L'educato va bene, bella macchina, e l'educato e Fiorino sono quelli in Fiat che stanno lavorando molto bene quelli. Lucato, Fiorino e poi minchia. Adesso ne dovranno arrivare mi pare altre 30 di macchine nuove, però vogliamo prendere quelle le Panda, qualcuna 4x4, qualcuna normale, quelle van, perché appunto siamo lamentati noi che facciamo molte strade in campagna d'inverno, qui e là non vanno bene queste macchine così. Non vanno bene perché toccano, perché capito, ci distruggono. Invece quando c'è una Panda 4x4, se vi fare una salita di campagna di quelle come ci sono a Nurvi, Dutubrega eccetera, metti la trazione, sali tranquillo, senza forzare, capito? E dice che adesso appena ricapitalizzano ordineranno anche qualche altro mezzo nuovo, un po' di attrezzature, un po' di cose. Poveri noi, ero contento, ha detto me, tra un po' così c'è il video, è già ammazza, nei 5 anni me ne vado, già sono giù di valle e devi. Un casino anche là. Con queste macchine, poi mi hanno detto di ritornare, devono ordinare il pezzo e buonanotte. E ce l'ho ancora così, vabbè, alle feste non si poteva fare, era un casino. Tutte le consegne che ci abbiamo, non potevo, ne abbiamo preso 2 di Ducati, uno che è frigo e l'altro è normale. Quello che uso io è normale solitamente, quello frigo lo usiamo per andare a prendere il pesce la mattina, perché abbiamo la pescheria adesso e andiamo a prendere il pesce noi da Ribicci. Ah, ho capito. Anche qua tutte quelle di Rinaldo lo stesso c'hanno la pescheria. Cioè è una buona cosa perché è completo il market, capite? Ma lì da voi quando ero con la apparottolese con la turità, a fine lavoro praticamente passavo sempre a prendere i dolci. Ma che fa quei dolci? Cazzo buoni? Dolci li fa sì. Però come te li facesse Gabino Rosso? Buoni, eh? Buoni, sì. Buoni, soprattutto le paste, le cose, le torte, papascine, formagelle, anche le bistecche mi piacciono molto lì. Tutti quelli che elenca adesso li fa quella pasticceria di senoli, si chiama Giglio. Quelli sono veramente buoni, ottimi, infatti mi ha fatto le serverie, anche mia cognata, e mia cognata va a fare la spesa le serverie. Lì da te. Infatti adesso vabbè 24 siamo tutti giù a Polo Torres, siamo a Trentina. Infatti gli ho detto a me non mi va a mancare le rotte, vai a pigliare prima, no, le ho già ordinati. Il 24 mattina dice che va a ritirarli, non so cosa abbia ordinato. Li fanno buoni, da giro li fanno buoni. Ma se no non sono buone quelle frittelline, aspetta come si chiamano, quelle rotole sembrano polpette di frittelle, c'erano la crema dentro, poi sono buoni, le bombette. E fatti fritti, minchia. No, non sono fatti fritti, classico, si chiamano, ma non mi viene, ce lo sta buttando. No, non sono tipo frittelline rotonde come le polpette, dentro c'è la crema. Sono un bel buoni e le fanno loro, sono anche Sini fa le paste buone, e Sini di Sassari mi pare, sì. Questo Sini di Sassari le fa molto buone, è una panetteria che fa anche i dolci. E non me lo vuole la moglie di Nino Torre Bravo, Maria, ma vuole dire sì. Quella si chiama Castagnola, mi ha detto Ilaria. Esatto, castagnole, sì, promossa, si chiamano castagnole, ce l'avevo sulla punta delle dita e basta, sulla punta della lingua e non mi veniva. Sono molto buone quelle castagnole, mamma mia, le bombette. Fa già, noi sì. Oh, io, si dice che c'è già in colazione. Di chi si può fare un mosso uno, me? Che buono. Gli hanno fatto una lotta a mia moglie, però non... Sì, erano buone, però comprate così in pasticceria, direttamente la crema è diversa, boh, non lo so. Perché poi loro le mettono direttamente la crema con la siringa, capito? Invece tu devi lasciarle il coso per riempirle, è un casino. Beh, ma già, ce la vendono la siringa, ce l'abbiamo anche noi, in vendita. Ce la vendono lì. Ma con la crema pasticcera sono buone, la verità, sono ben buone. Poi le riempiono bene. E poi c'è un'altra pasticceria. Sotto casa mia c'è una panetteria che vende queste pesche, come quelle, a me mi ricordo quando andavo all'asilo me le mettevo nel cestinetto mamma, la pesca e la banana, e queste pesche enormi che hanno la crema non solo in mezzo, anche dentro nelle guance, proprio all'interno, è una bontà sola. In mezzo dove la pesca per me è la miglior pasta che c'è, a parte il fatto che vivo un lugar già per me vero mangiare, perché io a volte non tutte le mattine prendo la pasta, perché a volte ne hai voglia, a volte no, e quindi un caffè macchiato e basta. Però la domenica mattina, che sono più rilassato, quando sono libero al lavoro e vado a fare colazione, la prendo sempre il cannoncino, perché ha poca crema, oppure una che non c'ha crema, come si chiama, il coso, ma gli dà il ventaglio, quelle cose così, e sono molto buone, capito, sono molto buone. Però la pesca per me è micidiale, perché è talmente grande che fa una colazione molto abbondante, solo è molto, c'è molto zucchero, capito. Quello sì. Invece a me, per me è la frittella con la crema mi piace un bel. Questa frittella con la crema è a chi non piace, anche senza crema, e con le ciambelline col buco sono buone lo stesso, solo c'è la roba fritta, allora le paste sono tutti così. Tutte così sono, vero Gianni? Canto le 9, sono bene, io vado a mangiare, mangio un boccone, se ci siete ci sentiamo dopo, e se no a frappè, sta piovendo, speriamo domani mattina si possa fare qualcosa, se no mi si abbiglia il culo, ma rientro a casa e mi prendo la giornata dei figli, tanto stare in mezzo all'acqua a me, non mi piace assai. Vabbè, vado a fare il carico anche io, una carica batterie, ci sentiamo dopo se coinciderà, vado anche a mangiare se mi tocca, la vediamo un po'. Adesso vediamo, ho mangiato un piatto di a pranzo già di ceci bollenti, allora mia moglie, ragazzi, se non mi fai i ceci con la te, ma un bel piatto, quasi me lo torno a doppia stanotte. Quindi stanotte siamo di concerto. Quindi si abbia il culo, non un tubo e te lo culo con la vacca. Lo scarico. Ma come la stessa è Giovanna. Allora, sentiamo dopo. Ma non puoi mangiare. Io già dopo, ciao. Sì, in caso di problemi, attacchi ce n'è anche di più. tutti i canali tra gli altri. No, non l'ho visto, io l'ho fatta con una ringola proprio. E com'è, com'è? Abbondante. Li prende uguali come l'antenna normale? Sì, li prende meglio. Affare fatto. Cazzarola, allora è illuminato. Tutti i canali Rai li prende molto forte. Sapete che costa più di un'antenna normale, quindi è per quello forse costata di meno. No, oh, riprende benissimo, eh. Però io ho un'idea ottima, perché anche cioè, non, io l'ho provato qua, non dà nessun problema, ti guardi la televisione tranquillamente, senza nessun. L'ho lasciato anche un bel po', Ho guardato il segnale, addirittura si canale Rai 100%. Da brevettare. Però vedi, è un'idea, per esempio se non c'hai una tazza che non c'hai antenna, per dire, e c'è un televisore di quelli piccoli e cosa, metti l'attacco, attacchi da me dalla televisione. Vabbè, o fai uno o fai l'altro, però può essere un'idea. Non può essere, è un'idea, un'ottima idea. Ma... allora se con l'antenna grande va bene, con l'avanto va, non lo so ancora, ma dovrebbe andare benissimo, allora è affare fatto. Perché ci sono anche di quegli antennini piccoli, l'hai visti, che sono calamitati. Io l'ho aspirato un po' a quello, l'ho ispirato, hai capito? Se gli devi dare un nome all'idea, eh. Non so di dopo. E trovare un nome all'antenna. Tipo... Boman. Caffa. TVCB. Ah, che vuol dire Bombolo Antonio? Ah. Affare fatto, è riuscito bene l'esperimento, alla grande. Sono contento, Sto finendo di saldare una cosa, Ho rotto un cavo, ma non è un cavo di antenna, è un cavettino, lo sto risaldando. Comunque ci giuravo che fosse che andasse bene soprattutto quella l'aspetto, cioè ci avrei giurato. Comunque una buona iniziativa, anche molte volte la notte non è chiuso il baracchino, no? Molte volte la notte per non stare c'è una stanza dove non ci passa capo né niente, prendi attacco con la tenna lì e vedi lo stesso. Ti guardi quello che devi guardare nella TV, quindi è un'idea geniale. E tu fatto.